Letture di Radio 24. Una volta le macchine da cucire si trovavano praticamente in tutte le case. Oggi sono quasi scomparse e quelli che ancora le usano per lo più utilizzano i modelli di ultima generazione. Quelle che, come tutti i prodotti tecnologici, una volta che si guastano vanno quasi sempre sostituite. Ma cosa accade se si rompono le vecchie e ingombranti macchine per cucire ancora presenti in molte case del nostro paese? Per fortuna, in uno sperduto paesino della Val d'Aosta, sopravvive l'ultimo riparatore certificato di macchine per cucire. Anche le macchine, si sa, hanno un'anima, ma quelle da cucire ce l'hanno intrisa di tenerezza. Custodiscono ricordi di tende per la finestra della cucina messe su alla belle meglio da appena sposati, di lenzuolini fatti per i bimbi, di orli a gonne e pantaloni per i vari membri della famiglia. In una vera e propria officina ricavata sotto il suo negozio di merceria e vendita di macchine da cucire, Ivano Magri, 50 anni, di Aosta, continua il lavoro iniziato 3 generazioni fa dal nonno Mariano. «Sono l'unico riparatore di macchine da cucire», spiega, «certificato da tutte le principali ditte del settore. Dal Vallese svizzero e dalla Savoia in Francia fino a Torino sono rimasto soltanto io». Magri ha ereditato la passione e savoir-faire artigianale dal nonno Mariano, arrivato dall'Emilia per lavorare alle acciaierie Cogne, che nel 1945 aprì una merceria in via Martinet, nel centro di Aosta. Meccanica, cucito e confezionamento erano il suo mondo, racconta il nipote. Aveva anche messo su una maglieria con una 12 di dipendenti, donne che da casa loro facevano i completi gonna, maglietta e cardigan. Poi li vendeva alla Rinascente a Torino e tornando indietro passava da Biella per ritirare i filati. Con l'avvento dei sintetici e di mode nuove, la ditta ha poi chiuso. Le macchine da cucire sono arrivate fino a me. A lui, continua, devo l'amore per questo mestiere ormai in via di estinzione. Da bambino, mentre mi lasciava trafficare col cacciavite e gli altri utensili, diceva «le macchine hanno un'anima». Ne ero affascinato. Magri, nel negozio che ha poi spostato nel 1986 fuori dal centro storico cittadino, ripara in media 30 di macchine al mese. Il prezzo è di circa 70 euro. I miei clienti vanno dai collezionisti alle casalinghe, passando da molte donne che hanno ereditato da nonne o mamme la loro macchina da cucire e non vogliono assolutamente separarsene o comprarne un modello nuovo. Mi raccontano immagini di famiglia che la sola vista dello strumento evoca in loro. Da circa un anno, la ditta aostana ha deciso di puntare anche sulle lezioni di cucito. A questo scopo, nel negozio, è stato ricavato uno spazio apposito con 5 postazioni, 3 macchine da cucire e ferri da stiro. Le richieste sono tante, spiega Magri. Va molto di moda il cucito creativo fatto con materiali di recupero. Va molto di moda il cucito creativo fatto con materiali di recupero. Avete ascoltato la lettura dell'articolo di Francesca Soro, L'ultimo riparatore di macchine da cucire, dalla stampa dell'8 dicembre. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Letture di Radio 24. Molte nuvole si addensano sull'orizzonte della democrazia, più in particolare sulla democrazia realizzata, cioè sui regimi politici dei paesi occidentali, scrive Ernesto Galli della Loggia in un articolo pubblicato su uno speciale del Corriere della Sera dedicato al nuovo anno. Della Loggia spiega poi che con la parola democrazia intendiamo di solito 2 cose diverse, che vanno tenute distinte. Da un lato, un regime il cui governo è eletto liberamente a opera del maggior numero di governati, oggi dunque con il suffragio universale. Dall'altro, invece, per democrazia intendiamo un regime politico che, oltre questa condizione, ne adempie pure un'altra, quella di attuare politiche volte a soddisfare le multiformi esigenze dei più. Come si capisce, tra le due cose esiste un legame ovvio. Infatti, se chi governa deve ottenere il consenso del maggior numero, è naturale che sarà spinto a fare di tutto per venire incontro alle esigenze di coloro di cui deve ottenere il voto. È in questo nesso tra consenso e domande sociali, domande di ogni genere, da una viabilità efficiente all'istruzione, all'assistenza sanitaria, alle pensioni, che si annidano alcuni dei maggiori pericoli per la democrazia. La ragione sta nel fatto che per essere soddisfatte, la stragrande maggioranza delle domande sociali richiedono l'impiego di risorse pubbliche, risorse che i governi possono procurarsi solo attraverso il prelievo fiscale. È attraverso le tasse che avviene il trasferimento di risorse da chi ha di più a chi ha di meno e che dunque si realizza almeno in parte quel principio di eguaglianza già rappresentato dal suffragio universale e dall'eguaglianza di fronte alla legge, che è l'idea portante della democrazia, la quale dunque ha bisogno, per funzionare, di un vasto e continuo surplus di risorse. Ha bisogno cioè che ci sia lo sviluppo economico, sviluppo che non a caso finora ha sempre accompagnato il cammino della democrazia. L'Occidente ha potuto storicamente essere democratico, infatti, anche o forse soprattutto grazie alla sua ricchezza. Ma sarà ancora così in futuro? Già oggi l'avvento di nuove grandi aree di crescita economica, specialmente in Asia, indica che le cose sono cambiate, che stanno rapidamente e radicalmente cambiando. Ecco allora la prima e forse maggiore incognita che pesa sul destino dei nostri regimi politici: la loro incapacità e impossibilità di soddisfare alle attese degli elettori, di ottenere il consenso su cui poggiano. Si tratta di un'incapacità e impossibilità di natura economica che rimanda direttamente, però, a un secondo e forse ben più grave problema che si profila all'orizzonte. Quello che può essere riassunto come la progressiva perdita di un vero potere di decisione da parte della politica, cioè dei cittadini che eleggono i governi. Sempre di più, infatti, a causa soprattutto della globalizzazione, della caduta di barriere e di regole nell'ambito degli scambi di merci e di capitali che ha investito tutto il pianeta nell'ultimo trentennio, sempre di più quasi tutte le scelte economiche cruciali sono ormai in massima parte sottratte alla volontà dei singoli governi, perché compiute da centri che di fatto non appartengono più ad alcuno spazio nazionale, non sono più vincolate da nessuna regolamentazione nazionale, collocandosi viceversa in uno spazio mondiale, o perlomeno continentale, come per esempio quello definito dall'Unione Europea. Da ultimo, anche le massicce migrazioni in atto verso l'Europa hanno contribuito a sottolineare l'ormai virtuale extraterritorialità dei fenomeni economici. Il problema grave e storicamente nuovo sta nel fatto che di fronte a un'economia che, come si è appena detto, sembra obbedire sempre di più a logiche e volontà non nazionali, la politica democratica, viceversa, non può che essere ancorata e in sostanza limitata all'ambito di ogni singolo Stato nazionale. Non si può essere cittadini e quindi elettori che di uno Stato, infatti, così come l'autorità dei singoli governi non può che arrestarsi ai confini di ogni Paese. Ne risulta di fatto, ne sta risultando già oggi in tutte le democrazie, una forte limitazione del raggio d'azione della politica, la sua progressiva irrilevanza e con ciò anche il suo discredito e di conseguenza il discredito di chi vi si dedica, ciò che a sua volta produce un reclutamento dei suoi addetti di livello qualitativo sempre minore e quindi ancora ulteriore discredito, in un circolo perverso che per molti versi è già il nostro scenario quotidiano. E quelli che avete ascoltato erano alcuni passaggi dell'articolo di Ernesto Galli della Loggia «Meno risorse, poco potere decisionale». Così il modello dell'Occidente è messo in crisi dalla globalizzazione. Dallo speciale 140 anni, allegato al Corriere della Sera del 22 dicembre. Il protagonista di un racconto natalizio scritto da Valeria Parrella per La Repubblica è il terzo di tre figli che ogni anno a Natale fanno ritorno a Napoli dai vari angoli del mondo nei quali si sono trasferiti. Mentre le sorelle Gianna e Adele vivono rispettivamente in Svizzera e a Hollywood, il nostro è quello che ha fatto meno strada, dato che viene da Milano. Passato il 25 dicembre e distribuiti i regali, i giorni trascorrono lenti. Dopo il 25 iniziarono i giorni lenti. Fece tutto quello che sapeva fare per riempire quelle giornate. Mangiò, dormì, andò a trovare vecchi amici di infanzia, litigò con suo cognato in varie lingue, scese a comprare 4 bottiglie serie per Capodanno, andò a passeggiare sul lungomare e si disse quanto era cambiato. Poté contare la distanza di come si sentiva oggi. Il 5 gennaio dell'anno nuovo, da quando si riversava su questo lungomare per guardare l'alba e baciare le ragazze, contò 7.233 passi. Arrivato a casa, preparò la valigia e annunciò l'acquisto del biglietto per le 8 del giorno seguente. Ma si svegliò molto prima, perché dall'alba suo padre frugava per l'enorme casa facendo un gran rumore. Non trovava più i Re Magi. Il presepe, infatti, che pareva immobile, subiva nel corso della sua esistenza 4 cambiamenti fondamentali. Il 24 dicembre a mezzanotte nasceva Gesù. Poi si avvicinava alla stella cometa e di pari passo con essa 3 teorie di Re Magi camminavano verso la grotta per giungervi appunto all'alba dell'Epifania. Il nonno non trovava più l'ultimo gruppo di Re Magi e prendendosela con la moglie e spalancando ogni tipo di pensile urlava senza punto interrogativo: «Adesso come facciamo?» Le figlie lo prendevano in giro. La moglie gli intimava di abbassare la voce. Lui si alzò e gli propose di spostare il gruppo di magi intermedio fin davanti alla grotta. Ma non si poteva. Non rispettavano la grandezza dei pastori. Partì da quella casa pensando che era la cosa migliore delle vacanze. Continuò a pensarlo il giorno dopo, quando in macchina si avviò alla periferia della città. Sul sedile di destra portava un piatto di struffoli che sua madre ogni anno regalava a Simona, la segretaria del direttore, forse sognando segretamente che sposasse suo figlio. Lontano, l'idroscalo dormiva il suo letargo invernale. Appena ebbe oltrepassato la sbarra dell'ingresso, si acquietò. Tirò su il cappuccio e risalì lento i viali. C'erano pozzanghere dappertutto, ma gli piacevano. Salutò le oche. Lo raggiunsero 2 WhatsApp di cui indovinò i mittenti dalle diverse melodie che vi aveva assegnato. Le sue sorelle. Ma rinunciò a guardare. Ormai erano tutti lontani. Tutti. Fumò l'ultima sigaretta sotto il porticato nord ed era anche la prima sigaretta del nuovo anno. Forse quegli archi erano il sogno di un peripatetico proiettato nel futuro. La scatola di vetro illuminata che lo aspettava gli apparve come il primo vero regalo che riceveva in quelle feste. La scatola luminosa delle sue idee, da scartocciare e godere. Entrò, salì, salutò, attraversò lastroni di cemento industriale e finì nella foglia, l'edificio laterale che, come una ninfea, pareva galleggiare nella bruma. Fece gli auguri a Simona e le regalò gli struffoli. Poi guardò i WhatsApp delle sorelle. Uno diceva: «L'hai trovato anche tu?» «Sì, io ho quello moro», rispondeva Adele, allegando la foto di Melchiorre. Fu in quel momento che Simona gli portò un minuscolo baldassarre inginocchiato. «L'ho trovato negli struffoli. Oddio, mi stavo quasi spaccando un dente». Avete ascoltato alcuni passaggi del racconto di Valeria Parrella, Tornando a casa, dalla Repubblica Speciale R Club del 6 dicembre.